1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, le 7:18 minuti. Dai, che è venerdì e si chiude la 130esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Forza! Che la 131esima è alle porte e secondo me potrebbe essere decisiva, Potrebbe essere. Allora, cari ascoltatori, avremo ospite Carlo Freccero del CDA della RAI oggi alle 8:15 con Oscar Giannino, ma avremo ospite anche quel pensionato di Novara che ha deciso di regalare un anno del suo lavoro alla provincia di Novara. Lo raccontava ieri La Stampa, eh? Ebbene sì, questi gli ospiti più avanti. Che dire, andiamo a leggere i giornali? Andiamo a leggerli, va. Venerdì 30 ottobre, i titoli sono quasi tutti dedicati alla vicenda di Roma di Ignazio Marino. Invece il Sole 24 Ore apre sulla raid francese su Telecom. Il leader di Iliad Niel, Javier Niel, dice: abbiamo l'11,2%. Questo è il titolo di prima pagina. Ma poi ecco qui Marino che resiste. Marino non lascia, il PD lo sfiducia. Così il Corriere della Sera. Per Repubblica, Marino sfida Renzi, resto sindaco, indagato per gli scontrini a Roma. Attenzione, questa è l'unica notizia, cioè l'unico giornale che pubblica questa notizia. Marino sarebbe da mercoledì indagato per la vicenda degli scontrini, così scrive Repubblica, ha ricevuto l'avviso di garanzia, accusa di peculato. La Stampa, Marino resta, sfida aperta al PD. Il Giornale, un kamikaze a Roma. Il Messaggero, Marino resta ma il PD è finita. Il Manifesto titola così: mostro Marino, con la foto del sindaco. L'Unità, l'ottavo re di Roma, Marino contro tutti. Come vedete, i titoli sono quasi tutti declinati a questo. Il Fatto Quotidiano invece ha una notizia che riguarda il PD, ma diversa. Un ufficio nella sede del PD per trattare affari e appalti. Il Fatto racconta: Guido Stefanelli e Massimo Pessina, proprietari dell'Unità, usano una stanza, la stanza del tesoriere del PD Bonifazi, nella sede del Nazareno, per i loro appuntamenti romani e trattare di appalti. Questa è l'accusa del Fatto Quotidiano. Partiamo però da alcuni soldi. Siccome avremo ospite Carlo Freccero del CDA della RAI, ecco, beh, la vicenda Varoufakis torna sui giornali, il divieto ora assoluto da parte della RAI, certificato in una circolare, di pagare i politici. RAI, dopo Varoufakis, divieto assoluto di pagare i politici. Questo è quello che racconta il Corriere della Sera nel titolo di pagina 14, ma anche Repubblica, la stretta della RAI, sempre vietato pagare i politici in televisione, una cosa che dovrebbe essere normale, visto che c'è la curiosità, lo chiedono anche qui da noi in radio, quanto gli date. Niente, nessuno degli ospiti che sentite ospitato a Radio 24 prende neanche mezzo euro, anche perché non abbiamo neanche i rimborsi spese, visto che stanno comodamente a casa loro al telefono. Quindi nessun euro viene pagato a nessun ospite, quello che riguarda la radio, ma posso assicurare tutte le radio, non è che solo a Radio 24 è certamente così, men che meno i politici, visto che siamo noi che abbiamo il microfono a fare un favore a loro, che possono parlare, non loro che si fanno intervistare a fare un favore a noi. Non so se è chiara la differenza. Comunque, la questione è sui giornali. Anche Paolo Bracalini, a pagina 11 del Giornale: dai VIP al milionario Fazio, la RAI strapaga 170 esterni. Viale Mazzini dice: e sono vietati compensi ai politici. In realtà il Giornale fa sapere che è una regola che esiste già da 15 anni e evidentemente non viene applicata. Vabbè, affronteremo ancora questa polemica con Carlo Freccero. Intanto però, a proposito di soldi, sentite qui che cosa racconta Raffaele Sollecito. Raffaele Sollecito, lo sapete, è abbastanza celebre a tutti, visto che è stato processato, condannato, poi alla fine assolto in Cassazione insieme ad Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher del novembre 2007, tra l'altro proprio il primo novembre, quindi ricorre in questi giorni anniversario. Ebbene, Sollecito racconta in una pagina intervista al Corriere della Sera, firma Elvira Serra, Sollecito e i 66.000 euro dalla regione. Ebbene, si racconta in una giornata che il Corriere segue a Giovinazzo, si presenta con una Porsche che parcheggia, una Porsche nera, è di un avvocato, però è di un amico di famiglia, visto che la mia 500 Abarth truccata è in officina, si presenta così Raffaele Sollecito, ho dovuto prendere in prestito questa Porsche. Ebbene, a 31 anni vive a Bisceglie con Francesco, cioè il papà, e Mara. E a Giovinazzo racconta questo: mi hanno dato 66.000 euro per 3 anni dalla regione Puglia, ho vinto un bando per gli under 35 disoccupati, avevo i requisiti, mi danno 66.000 euro per 3 anni, la metà a fondo perduto, e ho progettato con questi soldi un portale online con una app per commemorare i defunti. Io la giro a voi così, Memories. In realtà, racconta Raffaele Sollecito, mi è nata questa idea perché in carcere pensavo a mia mamma morta, alla impossibilità di venire al cimitero a trovarla sulla tomba, e dunque l'idea di questa app in cui si può anche virtualmente commemorare i defunti. Certo, detto il 30 ottobre e detto il giorno prima del primo novembre 2007, giorno dell'uccisione di Meredith Kercher. Va bene, la pagina la trovate sul Corriere della Sera, a pagina 21. È il momento delle notizie un po' così. Pensate che questo l'ho trovato come trafiletto, ve la dico così, per allietare il vostro weekend. Che Galan, ex presidente della Regione Veneto, ex ministro, sarà probabilmente affidato ai servizi sociali. La decisione sarà il 4 novembre prossimo da parte del Tribunale di Sorveglianza e potrebbe diventare tutor di educazione civica per i profughi a Padova. Tutor, quindi professore, diciamo così, di educazione civica, Giancarlo Galan, agli immigrati. Avanti, avanti. Questa è una notizia molto interessante che ho trovato sul Giorno. Pagina 12 riguarda una persona di Napoli che non poteva pagare il mutuo della casa. È un qualcosa nel quale purtroppo molti italiani si ritrovano e rischiano di potersi ritrovare. Non disperate. La notizia: Bruna Bianchi non paga il mutuo, il giudice lo salva. La banca costretta a dimezzare il debito. Non è che gliel'ha azzerato il debito, però gliel'ha dimezzato. È la storia di un napoletano che è riuscito a farsi abbattere il debito con la banca per l'acquisto della casa del 50%. Pensate che invece di restituire 250.000 euro dovrà restituirne 125.000. Perché? Il Tribunale di Napoli non ha fatto favori. Ha applicato una legge ben poco conosciuta, è la numero 3 del 2012. È una legge chiamata anche salva suicidi. L'ha ritenuto, secondo legge, un debitore meritevole, cioè una persona che ce la mette tutta per pagare il mutuo, ma proprio non ce la fa. E quindi questa legge dà la possibilità a chi non è in grado di far fronte ai propri debiti di rivolgersi al tribunale. È una legge nata proprio per evitare la disperazione, per questo viene battezzata salva suicidi. La disperazione delle persone che non ce la fanno a pagare i debiti, e il tribunale ha deciso di abbattere del 50% il debito di questo signore napoletano. È molto interessante, la storia la trovate a pagina 12 ed è una soluzione fatta per legge dal Tribunale di Napoli, senza dunque violare alcuna norma, anzi applicando una norma che c'è. Ma, come dire, questa poi la racconterò anche a Oscar Giannino più avanti. È sul secolo XIX, perché si materializza uno degli incubi che lui spesso ci racconta: il fisco che ti viene a trovare, se non nella culla, più o meno quando comincia a muovere i primi passi. Perché la storia raccontata dal secolo XIX è una storia surreale, davvero, in prima pagina. ed è l'articolo che vince il premio Mani sul volante, l'articolo che mi fa più incazzare di questa giornata. Perseguitato dal fisco da 8 anni, ora ne ha 10. Cioè, perseguitato dal fisco da quando aveva 2 anni. Succede a Savona, succede ad Alessandria, dove un bambino di 2 anni, per un chiaro caso di omonimia, è stato considerato dal fisco un compratore di telefonino senza pagare le imposte. Cioè, un giorno si presenta toc toc l'ufficiale di Equitalia a dire: devo dare una cartella per violazione della legge, violazione delle imposte. E la mamma dice: prego, la porti pure a colui che ha violato le imposte. E gli presenta suo figlio di 2 anni. Di 2 anni, da poco uscito praticamente dalla culla. Stupore, ilarità, un pizzico di comprensibile imbarazzo. Ma risulta evidente che non può essere stato questo pargolo di 2 anni ad aver acquistato un telefonino e non aver pagato le relative fatture. Eppure da quel momento questa mamma entra in un tourbillon di fax, comunicazioni, lettere, e non riesce a uscirne. Questo bambino ha 10 anni e da 8 anni questa mamma cerca di spiegare che è un caso di omonimia. Lei dice: per noi è diventato un incubo, ogni tanto mio figlio mi dice: ma davvero mamma, ho comprato un telefonino a 2 anni? E la mamma dice: no bambino, stai tranquillo, non è colpa tua, è colpa della burocrazia. Ma non riescono a uscire da questa vicenda surreale, kafkiana, e il debito aumenta in questo momento. La cifra per cui è debitore questo bambino nei confronti del fisco è arrivata a 166,59 euro. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan, il sindaco di Roma dell'informazione. Milan, non era un complimento, eh? Lo so. Oh, ho capito, grazie caro ascoltatore, mi stavo già galvanizzando tutto e invece no. Grazie comunque per la sigletta. E allora, cari italiani, parliamo proprio del sindaco di Roma. Il marziano Ignazio Marino dunque ha fatto il passo tanto atteso, ieri ufficializzato, come racconta il Corriere della Sera, con una riga su Facebook e Twitter a metà pomeriggio: ho deciso di ritirare le dimissioni presentate lo scorso 12 ottobre. Firmato Ignazio Marino. E dunque Ignazio Marino rimane e vuole andare allo scontro che c'è con il Partito Democratico, con il suo stesso partito, per andare in consiglio comunale, tanto che i titoli sono questi: Marino, resto, il PD no, cadrai. Io l'avevo detto da giorni, volevo proprio questo per vedere l'effetto che fa, e l'effetto, se a giudicare dalle prime pagine dei giornali, è un effetto di un gran casino in arrivo. Tra l'altro ci sono i retroscena politici, perché chiaramente ora sono tutti divisi, e cioè sentite qui Renzi nel retroscena di pagina 5, Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera: per fortuna che mi era stato detto che al ritorno avrei trovato tutto a posto, che il problema della capitale sarebbe stato risolto. Così Matteo Renzi, infuriato coi suoi collaboratori, dice ora: il colpevole è Orfini. Dunque c'è il rischio anche di una resa dei conti all'interno del PD. Il presidente del partito Orfini è messo nel mirino da Renzi. Anche per Repubblica, in questo lungo faccia a faccia, Renzi avrebbe detto a Orfini: te l'avevo detto di chiudere la questione prima, e ora invece siamo nei casini. Tu hai voluto fare di testa tua. Interessante però soprattutto l'articolo di Carlo Bonini a pagina 3 di Repubblica. Attenzione, perché questa è una notizia che c'è solo su Repubblica, ed è la seguente notizia: Ignazio Marino da mercoledì è indagato e dunque ha ricevuto l'avviso di garanzia per le famose spese degli scontrini, il famoso peculato, questa è l'accusa. Proprio nel giorno, scrive Carlo Bonini, in cui l'avvocato di Marino dice che una inchiesta sulla Onlus dello stesso sindaco è stata archiviata dalla procura, e la procura ha smentito, dunque prima dichiarazione smentita dalla procura. In più, scrive Carlo Bonini, l'avvocato tace un dettaglio cruciale dell'affare, e cioè una notizia di cui è al corrente almeno da mercoledì, quando è stato notificato un avviso di garanzia che ha continuato a tacere anche alla giunta il sindaco. È stato infatti iscritto al registro degli indagati di Roma per peculato e concorso in falso in atto pubblico nell'inchiesta sui giustificativi delle note spese. Tra l'altro, racconta Bonini, Marino si è praticamente, da un punto di vista giudiziario, suicidato, perché quando è andato in procura ha detto e ha insistito sulla palese falsità delle sue firme in calce ad almeno 7 giustificative, spiegando: era una prassi amministrativa delle mie segretarie avallare le mie firme. Detta altrimenti, per liberarsi dall'accusa di peculato, Marino aveva spiegato che le sue segretarie lavoravano a mano libera ed intuito nel compilare i giustificativi delle sue cene. Insomma, una toppa peggiore del buco, perché in questo modo il sindaco si è cucito addosso l'accusa peggiore di concorso in falso materiale e ideologico, un reato per giunta procedibile di ufficio. Dunque questa maldestra acrobazia, l'ennesima, scrive Bonini, è l'ennesima di un uomo senza controllo, evidentemente prigioniero di se stesso e di una vicenda politica trasformata in questione personale. Cioè, di fatto, Marino, andando in procura, dicendo: quelle carte sono false, la mia firma è falsa, vedete, perché firmavano, facevano tutte le mie segretarie. Insomma, concorso in falso in atto pubblico. La vicenda, dunque, si aggrava per lui. Sta di fatto che ora c'è la caccia alle firme. Il PD vuole cacciarlo. La caccia alle firme perché servono 25 consiglieri per sfiduciare Marino in consiglio comunale, e il PD ne ha 19. Come si fa? Beh, si chiamano altri consiglieri di altri partiti a dire: ci serve una mano. Così, secondo Alessandro Capponi, starebbe facendo lo stesso Orfini. Pagina 4 del Corriere della Sera. Eccoci qui. Teniamo conto che 19 del PD si dimettano. E poi bisogna fare una telefonata a qualcuno, e pare sia già stato contattato Alfio Marchini, della lista Marchini, a dire: scusa, ci dai una mano? Conta su 2 consiglieri. E poi ci sono i 4 di SEL. Che faranno i 4 di SEL? Ci sono 4 del Movimento 5 Stelle. Che faranno? Ci sono 4 del gruppo misto. Insomma, si cercano le 25 firme una per uno da parte del PD per fare cadere Marino. Le ore da incubo per il PD, l'ira di Renzi contro Orfini, e questo è il titolo di pagina 6 di Repubblica. Retroscena è proprio il racconto della telefonata tra Renzi e Orfini, con Renzi molto arrabbiato con il presidente del PD a dire: dovevi risolvere la questione e invece siamo nei casini. Questa è la situazione del Comune di Roma. Tutti i giornali dedicano almeno le prime 5-6 pagine a questo. Ah, tra l'altro, Marino tenterebbe che cosa? Visto che c'è Ogni Santi, c'è anche l'incontro con il Papa al cimitero della Capitale. Marino, scrivono Libero e il Giornale, tenterà un ultimo disperato endorsement del Papa, colui che disse: non l'ho invitato a Filadelfia. Cioè una foto opportunity, un abbraccio, una stretta di mano, qualcosa. E il Papa, secondo il giornale, sta cercando in tutti i modi di preparare il dribbling per scartare un incontro con Ignazio Marino. Cioè, a questo punto siamo arrivati. Voi vi rendete conto che lo spettacolo è assicurato. A proposito di città, c'è un'altra città in ginocchio da 6 giorni. Roba da terzo mondo, lo dico non io, lo dice il giornale, titolando a pagina 14. Ma che succede a Messina? Amici di Messina, voi siete ovviamente incolpevoli e vittime di questa situazione. Una frana che ha rovinato l'acquedotto e da 6 giorni di fatto non c'è l'acqua potabile, non c'è l'acqua corrente. Scriveteci se siete di Messina al 349-238-6666, lo dico, cioè scriveteci, perché magari vi ospitiamo alle 8:15 a raccontare questo dramma. C'è gente che infila le autobotti, gente che cerca acqua disperatamente, la rabbia di Messina senza acqua, pagina 17 della Stampa. Noi con le taniche come in guerra, ci sono le foto di persone con la bicicletta, con la macchina, vanno con le taniche alle autobotti per cercare di recuperare un po' d'acqua per farsi la pasta, lavarsi. Ma c'è qualcosa di incredibile. La situazione è proprio da tempi di guerra, con, racconta il Manifesto, anche il sindaco di Messina a Corinti che sbatte la testa da una parte all'altra a cercare di capire, eccolo qui, pagina 5 del manifesto. Facciamo tutto il possibile, chiederò lo stato di calamità. Sono le 12.30 di giovedì 29 ottobre, il sindaco a Corinti è il personaggio politico più ricercato d'Italia. La segretaria lo insegue dicendo guardi che ha un collegamento con la RAI tra 4 minuti, poi alle 14 c'è la 7, poi arrivano gli inviati di Striscia la Notizia, tutta Italia a capire come diavolo sia possibile da 6 giorni non avere l'acqua nel comune di Messina. Ma meno male che ci svela tutto Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, come mai non c'è l'acqua a Messina? Buongiorno, io non so spiegarti come mai non c'è l'acqua a Messina, però tu fai bene a dirlo alla radio. Ecco. Perché oggi sul Sole 24 Ore, tra le molte cose che sono riportate, c'è anche il risultato di una ricerca in cui si legge che la radio è considerata il mezzo più credibile, il mezzo di informazione più credibile, credo eccetto noi due, ma non so se hanno chiesto espressamente nel sondaggio se era in questo caso. Comunque, complimenti caro Alessandro, tu che fai la radio sei considerato più credibile ad esempio di me che mi occupo del giornale. Questo è incredibile. È incredibile, infatti, è abbastanza incredibile riferito a noi due. Volevo parlarti anche degli investimenti perché come vedi nelle primissime pagine del Sole 24 Ore il BTP, il tesoro poliennale, sono ai minimi storici e forse non è inutile precisare che anche se i tassi fossero negativi, come riferivamo ieri, però l'imposta di bollo è comunque dovuta. Non è una notizia mani sul volante, ma è purtroppo la notizia, il fisco ti guarda. Ti guarda e anche se tu compri titoli di Stato con rendimenti negativi, però l'imposta di bollo è dovuta. Non è dovuta quelle sulle plusvalenze, ma non essendoci, sarebbe anche difficile applicarla. Oh, ti ha scritto a proposito il fisco? No. No, non ti ha scritto. Ma ieri non ho controllato la posta. Allora guarda bene la posta. No, perché ci sono altre 65.000 lettere, spero, a persone maggiorenni. Che sentivo che in qualche caso. Non a duenni. No, si può dire duenni? Non ne ho idea, però mi informerò. Ci sono 65.000 lettere per le dichiarazioni IVA, quindi soggetti IVA. Sì. Adesso, mi sembra improbabile che un bambino di due anni abbia perso una partita IVA. Però non lo so. Nulla si può mai escludere. Comunque, su norme e tributi che tu leggerai religiosamente. Bravissimo. Su norme e tributi ti spieghiamo queste 65.000 lettere a chi saranno indirizzate, a quali soggetti sono indirizzate e perché. Ci sono appunto delle, è una specie di si può dire moral suasion a quest'ora? Angelino sarà contento, magari un sollecito per dire guarda che forse ti sei scordato sollecito, qualcosa, hai sbagliato non qualcosa. Raffaele sollecito perché prima abbiamo letto un sollecito. Stiamo facendo un gran casino, insomma. Va bene. Io non so come fanno a considerarci mezzo più credibile in questo momento. Comunque, nonostante questo, credibile anche tutto la ricostruzione, la spiegazione su finanza che tu leggi doviziosamente sempre nelle pagine di Finanza e Mercati, dove parliamo appunto di questo 11% che è andato a Xavier Niel di Iliad, anche una descrizione di chi è questo signore che è una specie di genietto dell'informatica, insomma sembra uno Steve Jobs d'oltralpe, molto attivo, molto scalatore e anche in questo caso insomma c'è una predominanza francese in Telecom. Ti volevo anche dire, potrebbero arrivare delle multe alla Volkswagen dal punto di vista formale, ma probabilmente sarà difficile. Così si è espresso ieri il ministro Delrio e così riferisce oggi Maurizio Caprino. Però fai attenzione, non nelle pagine di norme e tributi, ma invece nelle pagine di finanza. Guarda, nelle pagine di finanza, in ultimo ti voglio parlare della Roma, della società di calcio Roma. Non te ne parlo in vista del weekend, e comunque sappi che lunedì saremmo ancora davanti a voi, qualsiasi cosa accada, ma perché la Cassazione ha detto che anche una supervalutazione dei calciatori non è automaticamente da condannare, perché non è detto che sia fatta per frodare il fisco. Questo riferiamo in norme e tributi che tu calcisticamente, nonché religiosamente, leggerai. E a questo punto una serena domenica, un caro augurio per la tua squadra del cuore. Anche la tua. Grazie e soprattutto traffico! Alessandro Mila, te proprio un fenomeno a leggerla Nutetti. Avanti a sé, dialetto bolognese. Grande, grande! Salutiamo tutti gli amici di Bologna. 02 4652 4492 per le vostre sigle in dialetto, oppure ho lanciato questa idea delle sigle in lingua straniera, eh? Poi dopo ci fregate, ci mandate gli insulti in qualche lingua bizzarra, noi pensiamo che siano dei grandi complimenti, dobbiamo pagare anche un interprete per tradurre. Mannaggia noi. Vabbè, ma fate ciò che volete. Allora, intanto tangenti, si dice l'Italia, il paese della corruzione, ogni giorno passa e non finisce senza un qualche arresto. Ieri è stato arrestato il presidente di Rete Ferroviaria Italiana, Dario Lo Bosco, arrestato e messo ai domiciliari con l'accusa di aver intascato tangenti. La vicenda c'è raccontata ovunque. Soprattutto tremano i politici e le persone che hanno preso i soldi, perché la persona che è stata fermata, la persona chiave di tutto ciò, è un imprenditore, Massimo Campione, agrigentino, amministratore della Sistet Technology, il quale teneva, secondo l'accusa, un libro mastro nel quale segnava tutto, le cifre date a ogni persona. Ecco allora che questa persona, tra l'altro intercettata in una intercettazione ambientale, dice: ora cosa racconto? Sono rovinato, perché gli hanno sequestrato questo libro mastro. E allora da questo libro mastro si pensa che potranno emergere altri particolari. Ma la lasciamo lì. Oh, questa notizia è davvero stata candidata per vincere il premio Mani sul Volante, perché io la trovo incredibile. È l'apertura di Libero e poi raccontata a pagina 2 e si innesta sulla questione della legittima difesa, le polemiche, va prio d'adda, perché si dice: ah, non bisogna sparare alle persone, ed è giusto, se si può bisogna evitare, bisogna sparare in alto magari per far fuggire i ladri. Ebbene, un signore l'ha fatto, si chiama Giorgio Cesaretti, commerciante, 74 anni. Ha sparato mirando alle gomme, proprio volutamente, dice lui. Sono arrivati in tre per rubare nel suo bar, nel suo esercizio commerciale, e lui si è affacciato e ha sparato verso le gomme del furgone che fuggiva, e dice: l'ho fatto volutamente, proprio perché potevo colpirli, sono un cacciatore, ho una buona mira, ma evidentemente ho pensato, è sbagliato, ho sparato per metterli in fuga. Risultato: è indagato a Pesaro per esplosione in centro abitato. E allora giustamente Libero dice: se spari in aria ti denunciano perché hai spaventato i ladri. Tre onesti cittadini a Monza, Pesaro e Padova, quello di Pesaro è solo l'ultimo caso, sorprendono i banditi in casa, usano le armi, per evitare i guai mirano in alto, ma per le vittime fioccano i verbali. L'accusa: esplosioni pericolose in centro abitato. Allora viene da dire: che dobbiamo fare? Cioè, qual è la soluzione terza, la terza via? Non so, ditecelo. Questi cittadini lo chiedono in maniera tranquilla e serena. Oh, c'è anche molto di questa notizia di cronaca incredibile di una 17enne che è stata arrestata dopo che 5 mesi fa secondo l'accusa, ucciso la madre. Ha ucciso la madre perché? Perché la madre gli aveva vietato di andare sui social. È una persona, una 17enne, troppo connessa, sempre attaccata al computer. Ha ucciso la madre che le vietava i social, arrestata a 17 anni. Lo faccio vedere anche in diretta su Periscope. È una storia di cronaca che rilancia però il tema sempre molto interessante, dibattuto, del rapporto tra gli adolescenti e i computer, l'era della tecnologia. Si dice che sono nativi digitali, forse lo sono un po' troppo. In questo caso era probabilmente una situazione sfuggita di mano, con una 17enne che viveva per il computer e per i social, fino ad arrivare a questo gesto estremo nei confronti della madre che gli aveva vietato il computer. Vabbè, siamo in chiusura. La carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qua. Gianluca Roselli sul Fatto Quotidiano ci racconta che tutti martedì sera il ministro Maria Elena Boschi va a mangiare la pizza nello stesso posto, invitando alcune coetanee parlamentari, tutte a mangiare la pizza senza neanche vedere Rambo. Ma chi se ne frega!